Eccoci, eccoci, ciao, ciao a tutti, siamo buonasera, siamo alla seconda puntata e proviamo com'è il segnale, Prog 147, mi dà l'ok, grande, allora eccoci di nuovo qui, siamo alla seconda puntata di questa nuova trasmissione che è entrata con eleganza, con stile nel palinsesto di Radio Wombat, è piccolo scherzetto. Allora, stasera grandi ospiti, grandi nomi, grande selection, grande focaccia, l'ho portata prima. E, allora, diamo un benvenuto, così almeno visto che è un po' imbarazzato il ragazzo, diamo il benvenuto al nostro DJ Azio, direttamente da Londra, è venuto qui a portare la sua selezione stasera per la seconda puntata di Reg 69. Buonasera. E come va? Tutto a posto. Allora, è un uomo di poche parole, e allora... E DJ Azio mi accompagnerà in questo percorso, e se non gli tolgono la patente prima, e quindi in teoria dovrebbe esserci per una serie di puntate, no? Confermi? Sì. L'accendiamo. Va bene, allora oggi è una puntata particolare, perché parleremo, allora io ora faccio un po' anche di interventi, un po' diciamo quello che dovrei dire fuori dal microfono lo dico nel microfono in diretta, così almeno DJ Azio si era una svegliata. Te devi integrare Azio, DJ Azio, va bene? A Londra siamo timidi. Va bene, però qua sei a Milano Marittima e quindi devi cambiare le tue abitudini. Allora, te integra, capito? Se io dico oggi una fantastica puntata, te subito cogli il pezzo al volo e dici wow, mettimi un altro pezzo, capito? Va bene. Però dillo. Vai DJ, butta un altro pezzo. Oh no, no. however the case may be. I know it's gonna be alright. Just stay here close to me in this sad and lonely night. Oh, baby, when your heart has been broken with a sad, sad word, all your friends. Okay, lui era Owen Gray con Don't Leave Me Never. E questi i primi pezzi che state sentendo ora, avete sentito in apertura l'inconfondibile Jackie Me Too, e fanno parte di una compilation che si chiama Natural Reggae, uscita chiaramente, ripetiamolo sempre, per gli ascoltatori distratti e anche i presentatori distratti come DJ Azio, per esempio, e che stiamo parlando sempre del 1969, quindi tutto ciò che la reggae music ha prodotto in questo anno cruciale. Allora, e dicevamo, i pezzi che stiamo mandando ora sono tratti da questa compilation che si chiama Natural Reggae, che è uscita per la... perché etichetta? Sentiamo, perché etichetta? La Bamboo Records. Ok, perché stasera parleremo proprio della... Bamboo Records. Ok. Etichetta okay. Fondata a Londra nel 69, da Junior Lincoln. Come appunto tante situazioni dell'epoca, la maggior parte degli artisti di questa etichetta sono stati prodotti da Coxton Dodd, proprietario della Studio One, primo studio di registrazione aperto e gestito da Neri in Giamaica. Vai, DJ Azio, vai, non ti preoccupare, vai. Adesso... io devo un attimo mandare il 7:30 al commercialista. Te vai avanti con la trasmissione. Arrivo. Adesso in sottofondo abbiamo Mama dei Heptons. Ci sentiamo gli Heptons, vai. Yes. Ok, allora loro erano gli Heptons con Mama e faremo anche in questo caso una doppietta, e il prossimo pezzo degli Heptons lo diciamo dopo quando lo mandiamo, vero DJ Azio, vero? Yes. Allora, noi volevamo intanto magari possiamo dare un po' di curiosità, un po' di curiosità riguardo la trasmissione? Sì, perché allora diciamo la faccenda è che praticamente abbiamo scoperto in questi giorni che DJ Azio e io, che sono sempre il Prog One, e abbiamo trovato le stesse curiosità, più o meno, diciamo notizia in più, notizia in meno, e riga in più, riga in meno. E quindi stasera ci sarà anche una sorta di faida interna su chi se caparra prima le cose più fighe. La cosa più figa da raccontare, da dire. Quindi ci sta pure che la puntata non finisce, perché finisce magari a roulette russa, e quindi che ne so, va bene. Allora, questo silenzio è un po' imbarazzante, anche perché DJ Azio deve ancora sciogliersi, nonostante gli abbiamo acceso il condizionatore a 1000 gradi. Va bene, il prossimo pezzo che mandiamo, come avevamo promesso, la doppietta degli Heptons, dillo te DJ Azio. Fatti. I need a fat girl. Fat girl tonight. I need a fat, a very, very fat girl. Fat girl tonight. How many of them? I need some food. I'm feeling rude. I'm feeling rude. I say no. When you feel it, girl, you're gonna say it is so nice. I say no. When you feel it, girl, you're gonna say it is so nice. Girl, I know you want it. I say you want it tonight. And you're gonna get a lot of it. Get it tonight. Oh, get it galore, girl. Get it galore. You won't want no more, no more. I want no more. And that's for sure. Ok, ok, era Fatti Fatti degli Epton, non era E, la state ancora ascoltando in sottofondo. È il momento della rubrica Sagittario. Oggi avrete, no, non è il momento, no, l'oroscopo non lo facciamo. No. No, ok. Però ti rubo la prima notizia interessante. Allora, ecco, infatti, ora bando alle ciance, andiamo, diventiamo serie professional come siamo. E io direi subito di raccontare un po' di curiosità di questa Bamboo Records, vero? Esatto. Prima curiosità riguardante il produttore Coxon Dodd, nome che sentiremo parecchio sia in questa puntata che probabilmente nelle prossime puntate. Coxon Dodd, ripeto, primo ad aprire uno studio di registrazione completamente giamaicano a Kingston Town. Non si chiamava per davvero Coxon Dodd. Il suo vero nome è Clement Seymour. Appunto, l'informazione che ci contendevamo l'altro giorno io e DJ Pro One, che appunto il soprannome Coxon Dodd gli fu affibbiato a scuola per le sue doti in cricket, visto che Coxon era il nome di Alex Coxon, giocatore famoso degli anni 40 della Yorkshire County Cricket Club. Madonna. Vabbè, però io diciamo, io ti rispondo subito in questa sorta di contest, di clash, di news, di curiosità. E posso dire, io posso integrare dicendo che comunque la Bamboo Records era di proprietà, mi sa, forse l'hai detto te prima, di Junior Lincoln, vero? Yes. Che praticamente lui è stato nel 2016, pensate un po', è stato premiato al Jaria, che è il Jaria Honor Awards, che sarebbe l'acronimo di Jamaica Reggae Industry Association, e mi faccio i complimenti da solo. È stato premiato per il suo contributo alla produzione musicale in Jamaica. Poi andiamo avanti, sì, diciamo qualcos'altro, vai, poi con la selezione tanto va, la musica c'è, e potremmo, questa la dico io, vai, e che nulla, praticamente questa etichetta è durata dal 69 al 74, sicché proprio calza perfettamente con quello che sono le nostre maniacali ricerche. E per far sì che questa puntata si sviluppasse, prendeva corpo, prendeva forma, non si limitasse solo alla musica ma anche a qualche curiosità in più. È vero, è vero, per condire, è vero, un po'. E io vorrei che gli ascoltatori notassero anche la sensuale voce di DJ Azio, direttamente da Londra, ha portato con sé anche la voce sensuale tipica dei londinesi. Va bene, e dicevamo, quindi la produzione di questa piccola etichetta, che diciamo è una sorta di sottoetichetta di quale diciamo l'insieme di Gia Zio, della Studio One. Ok, e allora la maggior parte della produzione è in formato 7 pollici con qualche LP, più che LP diciamo compilation, infatti come avevo anticipato, come ho detto prima in apertura di puntata, questa prima scaletta che sto mandando ora in selezione viene da fa parte dell'album Natural, l'album della compilation Natural Reggae, in cui troviamo Jackie Mitu, Owen Gray, gli Eptons, Carlton and Shoes, Soul Vendors, e un gruppo che in particolare ci ha Aspetta, prima di comunque di continuare con le curiosità, direi di mettere un po' di musica, no? Mettiamo un altro pezzo, mettiamo Carlton and the Shoes, This Feeling. Ok, allora state ascoltando ora Elton Ellis con la sua Change of Plans e abbiamo un altro ospite internazionale, il secondo ospite internazionale che viene a salutare, vieni qua, vieni. Buonasera a tutti. Come stai? Direttamente da Beijing City. È vero, vieni, vieni, come stai, come va, dici qualcosa. Tutto bene, serata easy. Va bene, va, dai, buona serata. Ok, allora, grazie al nostro secondo ospite internazionale con la sua serata easy, che manco sa lui che vuol dire. Va bene, allora, il prossimo pezzo che carichiamo sono i gruppi. Ok. E qua c'è Prog 147, sì, che è fondamentale, importante, ci aiuta, però è anche un grandissimo pezzo di merda perché poi mi fa ridere, mi induce in tentazione. Va bene, allora. Il prossimo pezzo che andiamo a suonare si chiama Babyface. E loro sono i Sound Dimension. I Sound Dimension, perché vado a suonare questo pezzo? DJ Azio, perché andiamo a suonare i Sound Dimension? Ah, se lo sei te, Ah, è vero, lo so io. Ok, perché allora, perché i Sound Dimension compaiono nella produzione di questa piccola etichetta, e praticamente hanno un ruolo cardine questa sorta questo gruppo che praticamente sono i Sound Dimension. I Sound Dimension praticamente che il nome originario era The Soul Vendors, è stata una band che si è formata in Giamaica nel 67 e allora, mentre ora mando il babyface di loro in sottofondo, continuo a raccontare le curiosità e tutte le notizie che ho trovato su di loro. Loro sono in Sound Dimension con Babyface. Bene, allora, dicevamo, praticamente questa band, che al principio si chiamava The Soul Vendors, è stata una band che si è formata nel 67 e che in qualche modo era la house band della leggendaria Studio One, come raccontava prima DJ Azio, che tranquillamente a farsi i cazzi sua, nella Studio One di Coxon Dodd, e quindi praticamente questa era la house band che la mattina il nostro ospite internazionale di prima la mattina va a ritirare lettere di licenziamento a giro, invece loro andavano negli studi di Coxon Dodd a suonare. Quindi, capito, arrivavano lì, dice oggi chi c'è? Oggi c'è Alton Ellis, domani c'è Carlton and his Shoes, capito? E loro era la house band che erano lì e non facevano altro che suonare, cioè fantastico. E praticamente poi dico, siccome sono abbastanza presenti nella produzione di quell'anno, di quell'etichetta, dico bene, andiamo un attimo a vedere chi c'era in questa formazione. E quindi scavando e ricercando, sai che facciamo ora, dice Azio? Aggiungiamo tutta una serie di tutta una selezione di vari pezzi di loro, che ne pensi? Ma sì, almeno così mentre li presento comunque va come sottofondo musicale i loro pezzi, la loro produzione, va bene? Si fa un po' d'atmosfera. Sì, un po' di chill out. Allora, bene, dicevamo, andiamo a cercare un po', mi sono detto, bene, tiriamo fuori un po' di nomi che facevano parte di questa band. E vediamo, c'è Leroy Seabowls, che era poi, lo vedremo, il cantante principale degli Heptones, Ernest Ranglin alla chitarra, che è uno super nome, anche noto per aver creato lo stile ritmico della chitarra nel genere. Poi abbiamo Boris Gardiner al basso, e ancora Jackie Mitu, che abbiamo sentito in apertura, alla tastiera. Lui è morto nel 90. Andiamo col secondo pezzo. Jackie Mitu non era solamente un musicista per la Studio One, ma era anche direttore musicale. Lui per Coxon Dodd faceva il talent scout, trovava e chiamava i giovani talenti dal ghetto di Kingston. Ok, grande. Vediamo come è riuscito a integrare con eleganza DJ Azio. È entrato nel mood, nel groove, nell'atmosfera giusta. Abbiamo la terza ospite internazionale. Fermi. E qui direttamente dalla Brusca. Vienici a salutare, vieni. Terzo ospite stasera, abbiamo una carrellata di ospiti, nemmeno a Sanremo ci ho tutti questi ospiti. Vieni. Sono venuta a controllare che facciate davvero la puntata, cari miei. Allora, annuncio particolare per l'ospite di primo, ci sono due lettere di licenziamento pronte per lui subito, quindi se le vuole venire a firmare, ok. così mi è arrivato ora in diretta. Noi siamo collegati con vari siti da tutto il mondo che offrono lettere di licenziamento. Ambasciatore non porta pena. Bravo, porta lettera di licenziamento. Esatto. Allora, eravamo rimasti, ormai ci siamo persi nelle... No, eravamo a Jackie Me Too, vero? Sì. DJ Azio. Sì. E ora continua, sei entrato elegantemente a gamba tesa, ora chiudi il tuo intervento. Va bene, uno scherzetto, sei su scherzi a parte. Allora, e poi troviamo anche... diciamo anche che Jackie Me Too era... Dimentichiamo una notizia importantissima. Tastierista degli Scatalites. Degli Scatalites, no? La sua prima produzione, a parte che troviamo praticamente quasi... produzioni come Prog 147, te che hai studiato, come si dice, produzione annua o annuale, cioè che lui quasi ogni anno fino al 1990 che è morto ha fatto un album, produzione annuale. Qui intervengo io, annua, si può dire, all'accendiamo, vai! Bene, questo è il bello della diretta, il bello del compagno, va bene. Solidarietà grammaticale. È vero. Non comincia ora con essere nostalgico, che non è il momento della nostalgia. Questo è Reggae 69, però zero nostalgia, zero sentimentalismi. Ok. Benissimo. Allora, dicevamo quindi, praticamente produzione annua, dal 67 a oggi. Nel 67 troviamo il primo album di Jackie Me Too. In London, che esce per la Coxon Records, che c'è anche un pezzo che io volevo dedicare stasera al mio Prog 147, una chicchetta, però non sono riuscito a trovarlo, quindi nulla, c'era una fantastica versione di Whiter Shade of Pale, versione rocksteady, con l'inconfondibile tastiera di Jackie Me Too. Benissimo. Continuate a sentire in sottofondo i Sound Dimension. Questo è Dr. Sappa 2. E io direi a questo punto magari ci riposiamo un po' le corde vocali o continuiamo a spararle tutte. DJ Azio, dimmi te. No, conserviamo per dopo. Sì, vabbè. Sennò allora, dopo poi si fa brutta figura. Allora, ricordate che siamo arrivati a Jackie Me Too, però siamo quasi sul finire di quello che sono la carrellata di curiosità che riguarda i Sound Dimension. Per loro ci sono ancora altri 2/3, forse 4 pezzi in selezione, così almeno vi lasciamo il piacere, il gusto di assaporarli fino in fondo. E tutto ciò è su Radio Wombat. We'll be right back. ora state ascoltando Red Hit, a cui io faccio anche un pull up da solo, quindi loro sono sempre i Sound Dimension con Red Hit. Yes! Sulle note di Retit, che lo lasciamo come sottofondo, un pezzo fantastico, e continuiamo, andiamo a chiudere le poche news che avevamo sui Sound Dimension, no? Ma sì, dai. Ma sì, dai. Un uomo, una saggezza dei compagni. Allora, va bene. Quindi eravamo rimasti a Jackie Mitu, tra gli altri componenti di questo fantastico gruppo troviamo anche Wayne Gordon alla tromba, che anche lui ha cominciato la sua carriera con gli Scatalites, e dal 65 al 78 è stato anche il trombettista di Bob Marley and the Wailers. E per lui in quegli anni esce nel 73, fammelo trovare, aspetta, ti dico io come. Nel 73, scrivi Wayne Gordon, va bene, questo lo possiamo dire anche dopo. Nel 73 esce un album stampato solo in 300 copie, prodotto da Lee Perry, che l'album si chiama Musical Bones. DJ Azio è andato a finire qua negli anni di piombo, non si sa come mai, da Reg 69 agli anni di piombo, va bene. E nulla, quindi chiaramente è un disco abbastanza introvabile, solo 300 copie. E invece il prossimo pezzo che andiamo a presentare dei Sound Dimension è Babyface, che almeno così ha delle sonorità, ha un ritmo, ha un tema musicale molto molto vicino, almeno io ci ho trovato molta similitudine, si può dire similitudine brusca? Sì, si può dire. Non sei più DJ Azio, sei diventato brusca ora, va bene. Come sei burocratico. Sì, dai, bruscocratico. C'è Black is Black che somiglia molto a Black is Black dei Los Bravos. Comunque ora la sentiamo insieme, l'analizziamo e poi magari potete telefonare da casa, inviare mail, chiedere l'aiuto del pubblico. Ah, è vero, qua abbiamo tutta una serie di info che nella prima puntata, super emozionato, super distratto, super Saiyan, non abbiamo dato tutte queste importanti informazioni. I nostri social wombat. Però questo qua lo voglio fare anche continuando. DJ Azio, se te sei d'accordo, se non sei d'accordo, ti fai una radio tutta tua, un programma tutto tuo. E volevo mettere qualcosa di sottofondo. No, continuiamo con i Sound Dimension. Con Call 1143 o 1143 o 1143, va bene? Sentiamoci questa e diamo un po' di info utili. Allora, ok, e io direi allora partiamo dal sito di Gea Zio, vai, esprimiti. wombat.noblogs.org. Vai avanti, vai, ce n'è di roba da dire, vai. Con calma, diamogli il tempo di scrivere. Ah, come sei poco preoccupato. Ora memorizzano la voce, nei telefoni moderni te memorizzi la voce, dai ok e parte subito il link diretto, capito? Quindi devi essere veloce, devi... Dinamico, 2.0. Vai. Qua abbiamo la mail, posta wombat@insiberia.net. Poi abbiamo il nostro profilo Facebook. Basta cercare Radio Wombat Firenze su Facebook e il nostro profilo Twitter, Radio Wombat Fie. In più, per i più aggiornati, c'è anche il nostro profilo bot su Mastodon, che tiene aggiornato in tempo semireale sulle trasmissioni che vengono pubblicate sul sito. In più, la nostra frequenza, per quando siete in macchina, siete a casa e avete voglia di ascoltare la radio alla vecchia, 13.59 AM. Ok, e qui io direi anche dilla la tua genialata, perché io la trovo una genialata di DJ Azio, che questa puntata è Reggae 69 a.k.a. 1359 was my number. Fantastico, ogni riferimento è puramente casuale, solo gli ascoltatori più attenti, più esperti sanno la citazione storica del fantastico DJ Azio. E io continuerei. Allora, intanto facciamo partire la nostra Babyface che ho presentato prima e che poi miseramente l'ho messa in secondo piano, e sempre dei Sound Dimension, e questa è Babyface. Ok, allora continuiamo a tenerci come sottofondo, perché è perfetto, sono quasi tutte version o strumentali i pezzi che stiamo mandando, e io direi di fare un po' di rubrica della settimana. DJ Azio, cosa ne pensi? Integra. Segnaliamo questo sabato al Next Emerson Firenze, via di Bellagio, bus 28 2 o stazione Firenze Castello, evento da Rude Boy o Rude Girl o come vogliamo, per chi gli va, per chi gli pare. 12 anni di Next Emerson, 12 anni della svolta Sound System. Big up! Dicono siano due bei ragazzi quelli della svolta, te che ne pensi? Li hai mai visti? No, mai visti, anche perché mi hanno detto che suonano mascherati. Sì. Hanno visto, cioè li vedono anche, c'è cioè anche a giro per la città, e vestiti tipo, ne so, da uomo ragno, da uomo tigre, da Aquaman, Wonder Woman, Aquaman, Bricoman, va bene. Comunque continua con la presentazione dell'evento, non ci perdiamo perché poi a delirare un attimo, vai. L'evento comincia alle 20 con una pericena a gran gusto, che cazzo vuol dire non lo so, però promette bene. Alle 21 ci sarà il momento sia sportivo che culturale in una botta sola, con la presentazione di Euskadi di Edoardo Molinelli, la presenza dell'autore, la storia mai raccontata della selezione basca di calcio, una squadra antifascista. Quindi ci sa, lo sport, la cultura e compagni. Una mandata sola. Che ne pensi? Sono compagni, è sempre bene. Dalle 23 ci sarà il ricreativo con a Sound System Conference. Diciamolo, chi c'è in chi ci sarà in session? Skunking Society. From Genève o Ginevra, con il proprio impianto artigianale, e la svolta Sound System con la loro volta, il proprio impianto artigianale anche lui. Sì, poi hanno anche video poker e scommettitori clandestini, però insomma Pacinco. Sì, Pacianca, Pacinco. Va bene, prossimo pezzo è, ripeto, al CSA Next Emerson di sabato 20 ottobre, vero? Yes, per arrivare 2, il 28, oppure stazione di Castello. Oppure Mobike, ci sono anche dei compagni, delle compagne che vengono in Mobike, mica per forza, voglio dire. Va bene, il prossimo pezzo è un pezzo mio, perché mi piace molto, lui è il fantastico Ken Booth con Plaid Ink. Ascoltato altre 27 volte questo pezzo, però darling, sorry. Ok, allora, il prossimo artista è The Godfather of Ska. Ok, quindi già praticamente hai detto tutto, può anche partire tranquillamente il pezzo, invece no. Allora, lui chi è The Godfather of Ska? Lowry Aitken. Vai. Esprimiti. Vuoi che mandi il pezzo? No? Pensavo mandavi il pezzo. Ah, pensavo sì, dovesse essere l'uscita effetto e poi bam! Vai. Il pezzo. Come a Lego Bisme qui corto of Muno. $10 caught up, Mono. Why caught up, Mono? Lie down, girl, let me caught up, Mono. Why caught up, Mono? Downtown, girl, them a wear paper drop. You can't ball at all. Downtown, girl, them a wear paper drop. You can't ball at all. They got calabash. They got ash. Abbiamo sentito Katab Munno e ora stiamo sentendo Moon Rock, sempre di Lore Aitken. Gli unici due pezzi usciti nel 1969 per questa etichetta, ricordiamo, la Bamboo Records, incisi da Lore Aitken. Katab Munno, pezzo molto, come dire, stilisticamente calypso, infatti fedele e coerente con le origini di Lore Aitken, nome di battesimo Lorenzo Aitken, che appunto il suo primo impiego da giovanissimo nel mondo della musica, diciamo mondo della musica tra virgolette, dopo essersi trasferito a Kingston con la famiglia da Cuba dove era nato, come primo lavoro faceva l'intrattenitore per turisti al porto di Kingston cantando le canzoni mento, che appunto il mento è la versione giamaicana del calypso, che ricordiamo è la era appunto quel genere musicale folcloristico popolare caraibico tipico principalmente di Trinidad, che era stato venuto fuori quando gli schiavi erano stati importati nei Caraibi, appunto era il loro modo di esprimersi, il loro modo di cantare e comunicare. Prog One, ha qualcosa da aggiungere? No, io ascolto, sto voglio imparare, e quindi me l'hai chiesto te di prendere il microfono e di... Vabbè, voleva essere un tentativo di scambio. No, io ascolto monopolizzare. Finora ho parlato solo io, cioè, no, va bene. Io sono quello nuovo, quello timido, quello giovane. Sì, possiamo anche dire, ecco, che Lore Aitken può anche quasi, diciamo così, additare, che è stata una delle primissime, forse la prima figura. Dillo te, lo dico io, chi lo dice? Dillo te. Una delle primissime, forse la prima figura skinhead nell'Inghilterra degli anni 60, e quindi un po' ha fatto poi da apripista a quella che è stata la cultura skinhead in generale. Okay, non per piccolo. Niente The Godfather of Ska, okay. Suo soprannome ufficiale. Piccola parentesi. Allora, benissimo. Che come vogliamo continuare? Continuiamo con la nostra fantastica scaletta, no? Vai. Benissimo. Cosa abbiamo adesso? Allora, andiamo a presentare questo I Need Your Loving di Cecil Marshall. Cecil Marshall è un artista abbastanza conosciuto, non c'era nulla praticamente. Abbiamo nella prima puntata, però c'era la 69, la. Dimmi. Che no, niente. Ah, niente. Niente. Che solita a volte mi chiama, mi fa le carezze, non ho capito. No, cioè, l'ho sfiorato con la penna. Ah, ok. Va bene, e nulla, quindi troviamo tre singoli, tra cui anche un Winston and Cecil e United We Stand, che è uscito per l'etichetta Banana. E comunque noi andiamo qui, che sì, l'etichetta Banana è stata una sotto etichetta praticamente, cioè una sotto etichetta della Bamboo Records, che però sì, un produzione super limitata, che... e nulla, di questo Cecil Marshall andiamo ad ascoltare I Need Your Loving. I need your loving, oh sweet loving. I need your loving tonight. Come on, baby, I don't need maybe. I need your loving tonight. You've been away. Working di Marcia Griffiths. Due parole su Marcia Griffiths: la sua carriera comincia nel 1964 durante il suo primo concerto sul palco insieme a Byron Lee e The Dragonairs. Diciamo, attira subito l'attenzione di due discografici che gli offrono appunto contemporaneamente due contratti discografici. Si trattava infatti di Ronnie Rastalia e Coxon Dodd. Lei scelse tra i due Coxon Dodd, con il quale, grazie al quale collaborò con diversi artisti uomini, dove appunto con i quali incise dei singoli per duo, tra quali collaborato, tra le persone con cui ha collaborato abbiamo Tony Gregory e Bob Marley. Dal 70 al 74 la conosciamo nel famoso duo insieme a Bob Bandy, noto come Bob e Marcia, autore della famosa Young, Gifted and Black. Ok, allora state sentendo in sottofondo i Studio Rock dei Soul Vendors, che ricordiamo era il nome originale, o quantomeno il primo nome della formazione presentata prima, ossia i Sound Dimension. E io direi bene, questo lo lasciamo andare, lo ascoltiamo, e il prossimo pezzo invece, guarda, che volevo presentare, che poi hai concordato DJ Azio, e vorrei presentare i primissimi Gladiators. Che ne pensi? Band abbastanza famosa, ancora affermata sulla scena, a parer mio più roots che rocksteady o boss sound early reggae, però sono punti di vista quasi indiscutibili, diciamo quasi dogmi. Ho detto basta, andiamo sull'indiscutibile, cioè la storia. La storia del gruppo, appunto, si è formato nel 68 dopo che il fondatore del gruppo, Albert Griffiths, appunto, dove la carriera musicale era già cominciata con alcuni singoli incisi insieme agli Ethiopians. Appunto, nel 68 Albert radunò i suoi amici d'infanzia David Webber and Errol Grandison per formare appunto la formazione originale dei Gladiators. Il loro primo successo fu il singolo Hello Carol, prodotto da Coxon Dodd nel 1968. Adesso vi facciamo sentire Flying It Kimmy. Anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. Alright. Anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. On the floor, on the ground, up the hill, down the hill, me on top, a real life jack. Where I am, where I stand, anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. Alright, anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. Once a man, twice a child. You can fling it, gimme. Alright. Anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. Piccola curiosità sul nome dei Gladiators, mi è venuto a mente appunto che avevo letto che il nome è stato scelto perché mentre andavano a registrare allo Studio One ancora non avevano un nome loro, gli è stato suggerito da un passante, hanno chiesto il loro parere a un passante sul tram, sul bus, comunque su un mezzo pubblico, e appunto gli ha dato il nome dei Gladiators che loro hanno accettato e adottato. Ok, questa però non me l'avevi detta, è un'anteprima. Me l'avevo scordata. Va bene, smemorato. Ok. E Allora, bene. Siamo in chiusura, a questo punto siamo in chiusura e anche per oggi è andata, ce l'abbiamo fatta. E ricordiamo ancora il nostro sito. Vai DJ Azio. wombat.noblogs.org. Poi la nostra importantissima frequenza 1359 AM o 1359 was my number, se vogliamo leggerla in modo rude boy. Poi abbiamo la nostra importantissima mail posta wombat@insiberia.net, il nostro Twitter @radiowombatfi e il nostro account di Facebook Radio Wombat Firenze, il nostro account di Mastodon, il nostro bot che appunto vi propone tutte le novità pubblicate sul sito in automatico, Radio Wombat Firenze, cercato su Mastodon. Vi ricordiamo l'appuntamento di sabato, Prog One. Sì, parte altra roba, però vabbè, non lo so, forse... Vabbè, mentre risolvono il problema musicale io vi ricordo dell'appuntamento di sabato. Vabbè. Ore 20, apericena, ore 21, presentazione del libro sulla nazionale di calcio basca, una squadra antifascista, e dopo a seguire dialogo tra sound, tra la svolta Sound System e Skanking Society. Direttamente da Ginevra o Ginevra. Al Next Emerson di Firenze, via di Bellagio, bus 2, 28 o treno, fermata stazione di Castello. Namis, come dicono in Jamaica. Ok, allora, bene. Abbiamo finita anche la seconda puntata. E ora, in chiusura per gli ultimi minuti, faremo un po' di free DJ set, senza presentazione, senza nulla, solo musica come piace a noi. Vi salutiamo adesso. Vi salutiamo adesso a martedì prossimo con la terza puntata, che non diamo nessuna anticipazione su cosa faremo, cosa presenteremo, gli ospiti, niente spoiler, semplicemente, esatto, niente spoiler, niente marmitta sportiva, niente sedili Recaro, niente. Bene. Allora, l'ultima parte, gli ultimi minuti della selezione fanno parte di un'altra compilation uscita sempre per la Bamboo, che si chiama A Scorcia from Bamboo. Questo che state ascoltando ora è Dobby Dobson con la sua Walking in Footstep. E quindi selezioneremo un po' di pezzi che conosciuti e non di questa seconda compilation uscita nel 69. Bene ragazzi, grazie per la pazienza, grazie per l'ascolto e Prog 1, Prog 147, DJ Azio vi salutano e vi danno appuntamento a martedì prossimo qui su Radio Wombat. Lo facevamo insieme, DJ Azio, buona. Va bene, vai. Scusate. Bezos. Please.

solo in una vita che c'è, ma sì, da son, you must forgive me. That's a song for me, it makes me feel so good. Your music in mind, your soul is alright, a girl I've got to find. You played twice, you lick it back, man, what a la-la, bam, bam. You played once, you played twice, you lick it back, man, that's a sculpture on for them. The soul in my feet, I can't say in my seat, that song, you must repeat. Soul in my feet, I can say in my seat, that song, you must repeat. Soul in my feet, I can say in my seat, that song, you must repeat. Soul in my feet, I can say in my seat, that song, you must repeat.